Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Dalla quinta edizione della Festa di Teatro Ecologico di Stromboli, Frankenstein di Mary Shelley a cura di Cristiano De Murtas. Parte quarta di 5, lettura di Maya Sansa, musicazione dal vivo di Amedeo Monda. Quindi lui ricominciò. Devi creare una femmina per me, con la quale io possa vivere nel reciproco scambio di quegli affetti necessari al mio essere. Questo puoi farlo solo tu. E io lo chiedo a te, come un diritto che non mi devi rifiutare. Quando disse queste parole, non potei più sopprimere l'ira che mi bruciava dentro. Io mi rifiuto, risposi. Puoi rendermi il più infelice degli uomini, ma non mi renderai mai ignobile ai miei stessi occhi. Dovrei creare un altro come te. Perché uniate la vostra malvagità nel devastare il mondo. Hai torto, replicò il demone. E invece di minacciare, io sono disposto a ragionare con te. Sono malvagio perché infelice. Se tu potessi gettarmi giù da uno di questi crepacci ghiacciati, facendo a pezzi il mio corpo, opera delle tue mani, non lo chiameresti nemmeno delitto. Dovrei rispettare l'uomo quando l'uomo mi condanna. Fa attenzione. Io lavorerò alla tua distruzione e andrò avanti fino a devastarti il cuore, fino a farti maledire il giorno in cui sei nato. Si calmò e proseguì. Io volevo ragionare con te. Se un qualunque essere provasse per me dei moti di benevolenza, io le ricambierei 100 e 100 volte. E in nome di quella creatura io farei pace con tutta la specie. Richiedo una creatura dell'altro sesso, ma brutta come me, e tutto ciò che posso avere, e mi accontenterò. Non avremo una vita felice, ma in dolore e libera dal tormento che provo adesso io. Oh mio creatore, fammi felice, non rifiutare la mia richiesta. Mi commosse. Rabbrividivo al pensiero delle possibili conseguenze del mio consenso, ma sentivo che nel suo ragionamento era anche di giusto. Lui si accorse che i miei sentimenti erano mutati e continuò. Se tu acconsenti, né tu né alcun altro essere umano ci vedrà mai più. Io non mi nutro come gli uomini. Io non uccido l'agnello e il capretto per soddisfare la mia gola. Ghiande e bacche sono per me nutrimento sufficiente. Sei stato spietato con me. Ma realizza quello che desidero così ardentemente. Tu prometti, replicai io, di allontanarti dai luoghi abitati dall'uomo. Come potrai tu, che tanto brami l'amore e la simpatia dell'uomo, perseverare in questo esilio? Tornerai. Nuovamente cercherai la loro gentilezza, incontrando il loro disprezzo. E le tue diaboliche passioni si riaccenderanno e a quel punto avrai anche qualcuno ad aiutarti nel tuo mandato di distruzione. No, non può essere. Smettila di ragionare su questo argomento, non posso acconsentire. Solo un momento fa la mia istanza ti ha commosso. E adesso perché ti indurisci di nuovo contro le mie lamentele? Ti giuro che abbandonerò la compagnia degli uomini e vivrò nei luoghi più selvaggi. Le mie diaboliche passioni svaniranno quando incontrerò la simpatia di qualcuno. La mia vita scorrerà tranquilla e in punto di morte non maledirò il mio creatore. Avevo compassione per lui. A volte quasi desideravo consolarlo. Ma quando lo guardavo, quando vedevo quella massa sconcia muoversi e parlare, mi si agghiacciava il cuore e i miei sentimenti si mutavano in odio e orrore. Tu giuri, dissi, che non farai del male. Ma non potrebbe anche questo essere un trucco per accrescere il tuo trionfo, espandendo la portata della tua vendetta? Che cosa dici? Finché non avrò legami né affetti, mi nutrirò di odio e cattiveria. Con l'amore di qualcuno scomparirà la causa dei miei crimini. Io diventerò una cosa di cui nessuno conoscerà l'esistenza. Mi presi del tempo per riflettere su tutto quello che mi aveva raccontato. Non trascuravo nei miei ragionamenti la sua notevole forza e le sue minacce. Una creatura in grado di sopravvivere nelle caverne degli acciai e nascondersi a chi lo insegue tra le creste di precipizi inaccessibili. Era un essere che possedeva delle facoltà con cui era vano mettersi in competizione. «Giuro!» gridò. «Che se soddisferai la mia preghiera, non mi vedrai mai più!» «Acconsento alla tua pretesa.» «Bene. Avviati verso casa e comincia il tuo lavoro. Ne osserverò il progresso. Non temere di rivedermi fino a che non sarai pronto.» Così dicendo mi lasciò improvvisamente, temendo forse che io cambiassi idea. Era già l'alba quando arrivai al villaggio di Chamonix. Il giorno dopo tornammo a Ginevra. Mio padre era partito con l'intenzione di farmi distrarre e riportarmi alla pace perduta, ma la medicina era stata fatale. Ora, non riuscendo Clerval a capire il perché di quell'eccesso di sconforto che mostravo, affrettò il nostro rientro a casa nella speranza che la monotona quiete della vita domestica avrebbe gradualmente alleviato le mie sofferenze, qualunque fosse la causa da cui sorgevano. Sulla mia mente pesava la promessa fatta al mostro, come la cappa di piombo sul capo degli ipocriti dell'inferno di Dante. I giorni passavano, passavano le settimane e dal mio ritorno a Ginevra non riuscivo a trovare il coraggio per rimettermi all'opera. Temevo la vendetta di quel demone deluso, ma non riuscivo a superare la mia ripugnanza per il compito che mi era stato ingiunto. La mia salute, così provata fino ad allora, era molto migliorata e con questa il mio stato d'animo, quando non veniva turbato dal ricordo dell'infelice promessa da me fatta. «Caro figlio, sono felice di osservare che tu abbia riconquistato il tuo piacere di vivere e che sembri ritornato in te. Confesso, figlio mio, di aver sempre guardato al tuo matrimonio con la tua cugina come al consolidamento della nostra serenità domestica e il sostegno alla mia vecchiaia. Tuttavia, potresti avere incontrato un'altra donna che ami, e questo conflitto in te è l'origine dell'amara tristezza che manifesti di sentire. Mio caro padre, rassicurati, amo mia cugina con sincerità e tenerezza. Ogni mia speranza e progetto futuro è riposto nell'attesa della nostra unione. L'espressione dei tuoi sentimenti su questo argomento, mio caro Victor, mi dà il più grande piacere che io abbia provato da qualche tempo a questa parte. Se questo è quello che provi, di sicuro saremo felici, nonostante l'ombra di tristezza che gli ultimi eventi hanno gettato su di noi. Ma questa tristezza, che sembra avere preso un così forte possesso del tuo spirito, la vorrei dissipare. Dimmi dunque se hai qualcosa in contrario ad un'immediata celebrazione del matrimonio. Abbiamo subito delle sciagure. I recenti eventi ci hanno tolto quella tranquillità della vita di tutti i giorni che si addice alla mia età e ai miei malanni. Tu sei più giovane, ma non per questo ritengo che, essendo in possesso di un'adeguata fortuna, un matrimonio precoce possa in alcun modo interferire con qualunque progetto futuro tu possa aver formulato. Non credere però che io voglia importi la felicità o che un rinvio da parte tua possa causarmi alcun serio disagio. Interpreta le mie parole con imparzialità e rispondimi, ti supplico, con fiducia e sincerità. Ascoltavo mio padre in silenzio e per un po' restai senza risposta. Nella mia mente si aggirava veloce una moltitudine di pensieri e mi sforzavo di arrivarne a capo. Ahimè, l'idea di una immediata unione con mia cugina generava in me orrore e sgomento. Ero legato a una promessa solenne che non avevo ancora mantenuto e non osavo rompere. Se lo avessi fatto, quali molteplici sciagure sarebbero cadute su di me e la mia amata famiglia? Dovevo realizzare l'impegno preso e lasciare andare il mostro con la sua compagna. Questi sentimenti dettarono la mia risposta a mio padre. Espressi il desiderio di andare in Inghilterra, sostenni la mia supplica con ardore e mio padre si convinse facilmente ad accoglierla. In breve tempo organizzammo tutto. Decidemmo che il giro sarebbe durato 2 anni. A mio padre piacque il pensiero che la mia unione con Elizabeth si sarebbe compiuta al mio ritorno da Ginevra. Cominciai allora ad organizzare il mio viaggio. Ero ossessionato da una preoccupazione che mi dava paura e agitazione. Durante la mia assenza avrei lasciato i miei familiari, ignari dell'esistenza del loro nemico, esposti ai suoi attacchi. La mia partenza avrebbe potuto esasperarlo. D'altro canto, lui aveva promesso di seguirmi dovunque andassi. Non mi avrebbe dunque accompagnato in Inghilterra? Questo pensiero di per sé orribile mi tranquillizzava perché implicava la sicurezza dei miei familiari. Era la fine di agosto quando partii, per stare 2 anni in esilio. Mi gettai nella vettura che mi avrebbe portato via, sapendo a malapena dove andavo e incurante di quanto mi accadeva intorno. Mi ricordai soltanto di dare ordini affinché i miei strumenti chimici venissero imballati per portarli con me, che avevo deciso di adempiere alla mia promessa mentre ero all'estero, per essere, se possibile, al mio rientro un uomo libero. Dopo alcuni giorni trascorsi in indolente apatia, durante i quali percorsi molti chilometri, arrivai a Strasburgo, dove restai 2 giorni in attesa di Clerval. Arrivò. Ahimè, che grande contrasto fra di noi. Lui veniva stimolato da ogni nuovo spettacolo che ci si presentasse, gioioso quando ammirava la bellezza del sole al tramonto e ancora più felice quando lo vedeva sorgere per dare inizio a un nuovo giorno. Persino io, depresso come ero e con l'animo costantemente turbato da cupe sensazioni, persino io ne provai piacere. Clerval, amatissimo amico. Lui era un essere forgiato nella poesia stessa della natura. La sua immaginazione sfrenata ed entusiasta era temperata dalla sensibilità del suo cuore. Per il momento ci fermammo a Londra. Decidemmo di restare alcuni mesi in questa meravigliosa e celebre città. Clerval desiderava frequentare gli uomini di genio e di talento che vi fiorivano in quel tempo, mentre la mia occupazione principale era quella di capire come ottenere le informazioni necessarie all'adempimento della mia promessa. Avevo cominciato a raccogliere i materiali necessari alla mia nuova creazione e questo era per me come quella tortura in cui incessantemente singole gocce d'acqua cadono sul capo. Ogni pensiero rivolto a quell'opera era per me straziante, e ogni volta che pronunciavo una parola che vi alludesse mi tremavano le labbra e il mio cuore palpitava. Dopo aver trascorso alcuni mesi a Londra, ricevemmo una lettera da un uomo in Scozia che in passato ci aveva fatto visita a Ginevra. Clerval desiderava ardentemente accettare l'invito e io desideravo vedere tutte le meraviglie con cui la natura sceglie di adornare i suoi posti favoriti. Eravamo arrivati in Inghilterra all'inizio di ottobre e ora era febbraio. Lasciammo Londra il 27 marzo. Questo paesaggio riuscivo a godermelo, per quanto il mio piacere fosse avvelenato dai ricordi e dal pensiero di ciò che era a venire. Nei giorni della mia giovinezza non ero mai stato attraversato dal malcontento. La vista di ciò che vedi bello in natura o lo studio di quanto è eccelso e sublime nelle opere degli uomini riuscivano sempre a destare in me interesse nel mio cuore e a dare slancio al mio spirito. Adesso sono un albero stroncato. Il fulmine mi è penetrato dentro, fino all'anima. Non avevamo ancora finito di vedere i vari laghi di quelle regioni quando iniziavamo a fare amicizia con alcuni locali. Avevo messo da parte la mia promessa per un po' e temevo le ripercussioni del disappunto del demone. Poteva essere rimasto in Svizzera per riversare la sua vendetta sui miei parenti. Quest'idea mi perseguitava, mi tormentava in ogni momento. Aspettavo la corrispondenza con impazienza febbrile e quando arrivavano lettere con l'intestazione di Elisabeth o di mio padre, quasi non osavo leggerle e conoscere il mio fato. A volte pensavo che il demone mi seguisse e potesse così sollecitare la mia negligenza uccidendo il mio amico. Quando questi pensieri si impadronivano di me, non mi allontanavo da Clerval neanche un istante per proteggerlo dalla rabbia distruttiva che immaginavo si potesse riversare su di lui. Mi sentivo come se avessi commesso un grande crimine che mi rimordeva la coscienza. Io ero innocente, ma è pur vero che avevo attirato sul mio capo una tremenda maledizione. Visitai Edimburgo con occhi e mente assenti. Non ero proprio dell'umore di chiacchierare e ridere con degli estranei. Dissi a Clerval che desideravo fare il giro della Scozia per conto mio. «Tu divertiti», gli dissi, «e diamoci appuntamento qui. Potrò assentarmi per un mese o due, ma non interferire con i miei movimenti, ti prego. Lasciami alla pace e alla solitudine per un po'. Quando sarò tornato spero di avere il cuore più leggero». Clerval avrebbe voluto dissuadermi, ma quando mi vide tanto risoluto verso questo piano, smise di protestare. Mi supplicò di scrivergli spesso. «Preferirei seguire te nei tuoi vagabondaggi solitari che restare con questi scozzesi sconosciuti. Quindi, amico mio, sbrigati a ritornare affinché io mi possa sentire in qualche modo nuovamente a casa. Una cosa è impossibile in tua assenza». Separatomi dal mio amico, decisi di visitare alcuni luoghi remoti della Scozia, dove finire il mio lavoro in solitudine. Non avevo più dubbi che il mostro mi seguisse e che si sarebbe palesato quando avessi terminato l'opera per accogliere la sua compagna. Con questo proposito, attraversai gli altopiani settentrionali e scelsi una delle più distanti isole Orcadi come luogo dei miei travagli. Era il posto giusto per un'operazione simile, poco più di una roccia, i cui alti fianchi venivano costantemente sferzati dalle onde. Su tutta l'isola v'erano soltanto tre misere capanne. Una di queste, quando arrivai, era vuota. Così la affittai. Consisteva di sole due stanze. Mostravano tutto lo squallore della più infima penuria. Il tetto di paglia era crollato, le pareti senza intonaco e la porta scardinata. vissi inosservato e indisturbato. In questo rifugio dedicavo il mattino al lavoro, ma la sera, quando il tempo lo permetteva, passeggiavo sulla spiaggia pietrosa ad ascoltare il ruggito delle onde che si infrangevano ai miei piedi. Pensavo alla Svizzera, così diversa da questo paesaggio desolato e terribile. Capitava che non riuscissi a convincermi ad entrare nel mio laboratorio per diversi giorni. Altre volte vi restavo senza sosta, giorno e notte, pur di completare l'opera. L'ho coinvolto in un processo davvero disgustoso. Ai tempi del mio primo esperimento, ero stato in preda di una sorta di entusiastica frenesia che mi precludeva la visione dell'orrore di quello che facevo. La mia mente era talmente assorbita dagli sviluppi dei miei sforzi che i miei occhi non vedevano l'orrore del mio operato. Ora invece mi ci ero messo a sangue freddo e spesso il cuore soffriva per quello che facevano le mani. In ogni momento temevo di incontrare il mio persecutore. A volte sedevo con gli occhi fissi a terra, con la paura che se li avessi alzati mi sarei trovato davanti l'oggetto che ero terrorizzato di vedere. Avevo paura di allontanarmi dalla vista dei miei simili, perché restando solo, lui sarebbe potuto venire a reclamare la sua compagna. Nel frattempo continuavo a lavorare e la mia fatica era già in uno stato considerevolmente avanzato. Guardavo il suo compimento con trepida e ansiosa speranza. Una sera sedevo nel mio laboratorio. Il sole era tramontato e la luna stava proprio in quel momento sorgendo dal mare. Seduto lì, mi ritrovai a seguire un filo di pensieri che mi portò a considerare le conseguenze di quello che stavo facendo. 3 anni prima, coinvolto nella stessa occupazione, avevo creato un demonio, la cui ineguagliata barbarie mi aveva straziato il cuore, colmandolo per sempre del più pungente rimorso. E ora stavo creando un altro essere del cui carattere ero altrettanto ignaro. Sarebbe potuta diventare 10.000 volte più malvagia del suo compagno e deliziarsi di delitti e sciagure per il semplice gusto di compierli. Lui aveva giurato che avrebbe abbandonato la vicinanza degli uomini, nascondendosi nei deserti. Ma lei no. Lei avrebbe potuto rifiutarsi di adempiere a un patto stabilito prima della sua creazione. Magari si sarebbero odiati l'uno con l'altra. Lei avrebbe potuto andarsene e lui si sarebbe trovato di nuovo solo, esasperato da un nuovo oltraggio, quello di essere stato abbandonato da una della sua specie. Ma anche se avessero lasciato l'Europa per vivere nelle zone deserte del Nuovo Mondo, uno dei primi risultati di quella comunione di cui il demone era assetato sarebbero stati dei figli. E una razza di diavoli si sarebbe propagata sulla Terra, rendendo precaria e in preda al terrore l'esistenza stessa della specie umana. Che diritto avevo io di infliggere una condanna simile sulle generazioni di tutti i tempi a venire? Mi ero fatto commuovere dai sofismi dell'essere da me creato. Mi ero fatto stordire dalle sue demoniache minacce. Ma adesso, per la prima volta, mi balenò in mente la nefandezza della mia promessa. A quel punto alzai lo sguardo e vidi, alla luce della luna, il demone alla finestra. Mi guardava, con le labbra contorte in un orribile ghigno, mentre io sedevo intento al compito che lui mi aveva assegnato. Sì, mi aveva seguito nei miei viaggi. Sì, si era attardato nelle foreste, nascoste nelle caverne, rifugiato nelle immense e deserte brughiere. Veniva adesso a reclamare l'adempimento della mia promessa. Quando lo vidi, il suo volto esprimeva la più estrema malvagità e perfidia. Provai una sensazione di follia al pensiero della mia promessa di creare un altro essere come lui. E tremando di collera feci a pezzi la cosa a cui stavo lavorando. L'infame mi osservò distruggere la creatura ed emettendo un urlo che esprimeva diabolica disperazione e desiderio di vendetta, si eclissò. Uscì dalla stanza, serrai la porta e giurai solennemente con tutto il mio cuore che mai avrei ripreso quel lavoro. Quindi a passi tremanti mi recai nella mia camera. Ero solo. Trascorsi varie ore alla finestra con gli occhi fissi al mare. Tutta la natura riposava sotto lo sguardo della quieta luna. Percepivo quel silenzio senza rendermi conto di quanto fosse profondo. Pochi minuti dopo sentii scricchiolare la porta. Come se qualcuno stesse tentando di aprirla lentamente. Tremai dalla testa ai piedi. Fui sopraffatto da una sensazione di impotenza, di quelle che così spesso si provano nei sogni paurosi, quando cerchi invano di scampare a un imminente pericolo e non riuscii a muovermi. Di lì a poco udii un rumore di passi nel corridoio, la porta della mia stanza si aprì e apparve lo sciagurato che temevo di vedere. Chiuse la porta e si avvicinò e disse: hai distrutto il lavoro che avevi cominciato. Osi rompere la tua promessa. Io ho sopportato fatica e sofferenza, ho lasciato la Svizzera insieme a te, furtivamente ho percorso le rive del Reno, sono passato tra le sue isole verdeggianti e sulla cima dei suoi colli, ho dimorato per tanti mesi nelle brughiere dell'Inghilterra e tra i deserti della Scozia. Mi sono sottoposto a sforzi incalcolabili, al freddo e alla fame. E tu osi distruggere le mie speranze. Sì, io rompo la mia promessa. Io non creerò mai un essere come te, tanto deforme e malvagio. Finora ho ragionato con te, ma tu ti sei dimostrato immeritevole della mia pazienza. Ricorda il mio potere. Tu ti ritieni miserabile, ma io posso renderti così sciagurato da farti odiare la luce del sole. Tu sei il mio creatore, ma io sono il tuo padrone. Obbedisci. Le tue minacce non possono portarmi a compiere un atto così nefasto. Dovrei io scatenare sulla terra un demone che si diletta di morte e sciagura? Vattene! Sono irremovibile e le tue parole possono soltanto esasperare la mia ira. Il mostro vide la determinazione sul mio viso e digrignò i denti per la rabbia. Potrà dunque ogni uomo stringere al petto una moglie, ogni bestia accoppiarsi e solo io restare solo. Io ho provato sentimenti di affetto e sono stati ricambiati da odio e disprezzo. Uomo, tu puoi anche detestarmi, ma attento, le tue ore passeranno nel terrore e nel dolore e presto cadrà la folgore che ti strapperà per sempre la tua felicità. Puoi inaridire le mie passioni, ma quella per la vendetta resta. La vendetta, d'ora in poi, sarà per me cosa più cara della luce o del cibo. Può darsi che io muoia, ma prima tu maledirai il sole che contempla la tua sventura. Fa attenzione, perché io non ho paura e dunque sono molto potente. Ti sorveglierò con l'astuzia di un serpente. in attesa del momento in cui iniettare il mio veleno. Taci, demonio! Non appestare l'aria con questi suoni di malvagità. Ti ho reso nota la mia decisione e non sono così codardo da piegarmi alle parole. Lasciami. Sono irremovibile. Va bene. Me ne vado. Ma ricorda. Sarò con te nella tua prima notte di nozze. Balzai in avanti esclamando: maledetto! Prima di firmare la mia condanna a morte, accertati di essere in salvo tu stesso. Avrei voluto afferrarlo, ma lui riuscì a deludere la mia presa e si precipitò fuori dalla casa. Di nuovo era tutto silenzio, ma le sue parole mi rombavano in testa. Bruciavo di rabbia, volevo inseguire chi aveva ucciso la mia pace e affogarlo nell'oceano. Con l'agitazione camminavo avanti e indietro per la stanza. Perché non lo avevo inseguito e ingaggiato con lui una lotta mortale? Rabbrividivo al pensiero di chi sarebbe stata la prossima vittima, sacrificata alla sua insaziabile sete di vendetta, e ripensai alle sue parole. Sarò con te la tua prima notte di nozze. A quell'ora sarei morto, soddisfacendo la sua malvagità. La prospettiva non mi spaventava, ma pensavo alla mia amata Elizabeth. Le sue lacrime e l'interminabile dolore nel trovare il suo amato così barbaramente strappato a lei. Passò la notte e il sole si levò. I miei sentimenti si calmarono. Uscii da quella casa e mi misi a camminare sulla riva. Desiderai di poter passare il resto della mia vita sopra quel nudo scoglio, senza l'improvviso irrompere di traumi devastanti. Se tornavo, ero destinato a venire sacrificato o vedere morire coloro che amavo per mano di un demone che io stesso avevo creato. Camminavo per l'isola come uno spettro inquieto. Quando arrivò il mezzogiorno, mi stesi sull'erba e venni sopraffatto da un sonno profondo. Avevo passato la notte sveglio, i miei nervi erano scossi e i miei occhi rossi per la veglia e la tristezza. Quando mi svegliai, cominciai a riflettere sull'accaduto con più lucidità, per quanto ancora mi rimbombassero nelle orecchie le parole del demone, come campane a morte. Sembravano quelle di un sogno, ma erano nitide e opprimenti, come una realtà. Il sole era calato parecchio ed io sedevo ancora sulla riva, quando vidi una barca di pescatori approdare vicino a me. Uno degli uomini mi portò un pacchetto. Conteneva delle lettere da Ginevra e una di Clerval, che mi incitava a raggiungerlo. Questa lettera mi richiamò in qualche misura alla vita e decisi di lasciare l'isola allo scadere di 2 giorni. Ma prima di partire v'era da assolvere un compito. Dovevo imballare i miei strumenti chimici e per farlo dovevo entrare nella stanza dove si era svolto il mio odioso lavoro. Avrei dovuto riprendere in mano quegli strumenti la cui sola vista mi faceva star male. Il mattino seguente trovai il coraggio sufficiente e aprii la porta del mio laboratorio. I resti della creatura incompiuta, da me distrutta, erano sparsi al pavimento. Mi presi un momento per raccogliere le forze e poi entrai nella stanza. Portai fuori gli strumenti con mani tremanti, ma pensai anche di non poter lasciare lì i resti del mio lavoro, per non suscitare l'orrore e il sospetto dei contadini. Quindi li raccolsi in un cesto e li misi da parte, deciso a gettarli in mare quella stessa notte. Non potrebbe esservi mutamento più radicale di quello occorso ai miei sentimenti dalla notte in cui era apparso il demone. Fino Fino ad allora avevo considerato la mia promessa con triste rassegnazione, come una cosa che dovesse essere mantenuta. Ora invece sentivo che mi era caduto un velo dagli occhi e che per la prima volta potevo vedere chiaramente. Non mi passò per la testa neanche un istante l'idea di rimettermi al lavoro. La minaccia che avevo ricevuto opprimeva i miei pensieri, ma non ritenni di potermi opporre. Mi era ormai chiaro che creare un altro demone, come quello che avevo già creato, sarebbe stato un atto del più vile e atroce egoismo. E scacciai dalla mia mente qualunque pensiero potesse portarmi a una conclusione diversa. La luna sorse tra le 2 e le 3 del mattino. A quel punto misi il mio cesto su un piccolo gozzo e mi allontanai di circa 4 miglia dalla riva. Mi sentivo come sul punto di compiere un crimine orrendo ed evitavo, con ansia tremante, qualunque incontro con i miei simili. A un certo punto, la luna, limpida fino ad allora, venne improvvisamente ricoperta da una densa nube e io approfittai di quel momento di buio per gettare il mio cesto nel mare. Stetti ad ascoltare il gorgoglio mentre affondava e poi mi allontanai da lì. Mi distesi sul fondo dell'imbarcazione. Le nubi nascondevano la luna. Ogni cosa era avvolta dalle tenebre ed io sentivo solo il rumore della barca che fendeva le onde. Quel mormorio mi cullò e molto presto dormivo profondamente. Non so quanto restai in questo stato, ma quando mi svegliai mi accorsi che il sole era già parecchio alto, che il vento mi aveva spinto lontano dalla costa da cui ero partito. Cercai di indirizzare la mia rotta, ma presto mi accorsi che se avessi nuovamente tentato di cambiarla, l'imbarcazione si sarebbe riempita d'acqua in un attimo. In questa condizione la mia unica risorsa era lasciarmi portare dal vento. Confesso di aver provato sensazioni di terrore. Non avevo una bussola e avevo così poca familiarità con questa parte del mondo che il sole non mi era di grande aiuto. Guardai il cielo, coperto di nuvole mosse dal vento, a cui succedevano altre nuvole. Guardai il mare. Sarebbe stato la mia tomba. Demone, esclamai, la tua missione si compie. Pensai ad Elizabeth, a mio padre, a Clerval, e venni trasportato in un flusso di immagini così spaventose e disperate che persino adesso rabbrividisco al pensiero. Passarono alcune ore. Poi, gradualmente, il sole cominciò a calare all'orizzonte. Il vento scemò in una brezza gentile e dal mare scomparvero gli impetuosi cavalloni. A questi, però, succedettero grandi onde lunghe. Mi venne il mal di mare. Quasi non riuscivo a governare il timone, quando d'un tratto scorsi verso sud la sagoma di una costa scoscesa. Sfinito come ero dalla fatica e dalla tremenda tensione che avevo sostenuto per parecchie ore, sentii questa certezza di vita salirmi al cuore come un caldo flusso di gioia e mi sgorgarono le lacrime dagli occhi. Feci una nuova vela con un pezzo del mio abito e indirizzai con entusiasmo il mio corso verso terra. Aveva aspetto selvaggio e roccioso, ma avvicinandomi potei facilmente scorgervi tracce di coltivazione. Vidi delle imbarcazioni vicino riva e mi sentii improvvisamente riportato nella società degli uomini civili. Superato il promontorio, scorsi una piccola e graziosa cittadina e un porto sicuro, nel quale entrai con il cuore pulsante di gioia per la mia inaspettata salvezza. Mentre ero occupato a legare la barca e sistemare le vele, si avvicinarono molte persone. Sembravano molto sorprese di vedermi. Invece di offrirmi un qualche aiuto, bisbigliavano tra loro con gesti che in qualunque altro momento avrebbero prodotto in me una leggera sensazione di allarme. Per come stavano le cose, badai soltanto al fatto che parlavano inglese. E dunque in quella lingua mi rivolsi a loro. Buoni amici, dissi, sareste così gentili da dirmi il nome di questa città e informarmi su dove mi trovo? Lo saprete molto presto, replicò un uomo in tono burbero. Forse siete giunto in un luogo che non vi sarà molto gradito. Ma non vi sarà chiesto dove desideriate alloggiare, ve lo assicuro. Fui estremamente sorpreso di ricevere una risposta così rude da un estraneo e inoltre rimasi sconcertato nel vedere i volti accigliati e arrabbiati dei suoi compagni. Perché mi rispondete così sgarbatamente? Non è certo usanza degli inglesi accogliere in un modo così inospitale gli stranieri. Io non so, disse l'uomo, quale sia l'usanza degli inglesi, ma è usanza degli irlandesi quella di odiare i delinquenti. Mentre proseguiva questo strano dialogo, mi accorsi che il capannello di persone si faceva più numeroso. Chiesi la strada per la locanda, ma nessuno mi rispose. Mi incamminai e un mormorio si levò da quella folla che, circondandomi, mi veniva dietro. A quel punto si avvicinò un uomo dall'aria turba. Mi batté una mano sulla spalla e mi disse: Venite, signore, dovete seguirmi da Mr. Kirwin per dare informazioni sul vostro conto. Chi è Mr. Kirwin? E perché devo dare informazioni sul mio conto? Non è un paese libero questo? Lo è, signore, per la gente onesta. Kirwin è un magistrato e voi dovete rendere conto della morte di un gentiluomo trovato assassinato qui la notte scorsa. Questa risposta mi fece trasalire, ma mi ripresi subito. Ero innocente. Lo si poteva provare con facilità. Seguì la mia guida in silenzio e venni condotto alla presenza del magistrato, un uomo anziano, dall'aria benevola e modi calmi e gentili. A me, però, rivolse uno sguardo piuttosto severo. Si fecero avanti una mezza dozzina di uomini e quello selezionato dal magistrato dichiarò di essere stato fuori a pescare la notte precedente con suo figlio e suo cognato, Daniel Nugent, quando intorno alle 10 si diressero verso terra. Era una notte molto buia perché la luna non era ancora sorta. Non attraccarono al porto, ma in una insenatura a circa 2 miglia di distanza. Lui si incamminò per primo, portando una parte dell'attrezzatura da pesca. E mentre procedeva lungo la spiaggia, urtò il piede contro qualcosa e cadde steso a terra. Arrivarono i suoi compagni ad aiutarlo e alla luce della loro lanterna scoprirono che era caduto sul corpo di un uomo, che aveva proprio l'aria di essere morto. Inizialmente credettero che fosse il cadavere di qualcuno che era annegato ed era stato rigettato a riva dalle onde, ma poi si accorsero che i suoi vestiti erano asciutti e che il corpo non era ancora freddo. Lo trasportarono immediatamente in una casa lì vicino e tentarono invano di rianimarlo. Sembrava un giovane uomo di bell'aspetto, di circa 25 anni. Probabilmente era stato strangolato, perché sul corpo non vi erano altri segni di violenza che un'impronta scura di dita intorno al collo. La prima parte di questo racconto non mi aveva interessato in alcun modo, ma quando si parlò dell'impronta delle dita mi ricordai dell'assassinio di mio fratello e mi prese una grande agitazione, per cui fui costretto a poggiarmi a una sedia. Il magistrato mi osservava con occhio attento e ovviamente non trasse una buona impressione dal mio comportamento. Il figlio confermò il racconto di suo padre, Ma quando chiamarono Daniel Nugent, questi giurò con convinzione di aver visto una barca con un solo uomo a bordo. E per quanto fosse in grado di giudicare, era la stessa barca con cui ero approdato io. Un'altra donna confermò quanto detto dai pescatori, e cioè che quando avevano portato il corpo a casa sua non era ancora freddo. L'avevano messo in un letto e lo avevano massaggiato. Poi Daniel era andato in città in cerca del medico, ma in quel corpo non v'era ormai più vita. Parecchi altri uomini vennero interrogati e erano tutti concordi che con quel forte vento del nord che si era alzato durante la notte fossi infine stato costretto a tornare quasi nello stesso punto da cui ero partito. D'altra parte, osservavano, era probabile che fossi entrato nel porto senza sapere quanto distava la città dal luogo in cui avevo deposto il cadavere. Dopo aver ascoltato queste testimonianze, Mr. Kirwin volle che fossi condotto nella stanza dove il corpo giaceva in attesa di sepoltura, per osservare l'effetto che quella vista avrebbe prodotto su di me. L'idea gli fu forse suggerita dalla estrema agitazione che avevo mostrato quando erano state descritte le modalità dell'omicidio. Venni dunque condotto alla locanda. Non avevo potuto fare a meno di restare colpito dalle strane coincidenze che si erano verificate in quella notte così movimentata, ma sapendo di aver parlato con varie persone dell'isola alla stessa ora in cui il corpo era stato trovato, ero perfettamente tranquillo sulle conseguenze della faccenda. Entrai nella stanza in cui giaceva il cadavere e venni condotto alla bara. Come posso descrivere quello che provai a quella vista? Mi sento ancora riarso dall'orrore. Non posso pensare a quel terribile momento senza provare brividi di angoscia. E niente rispetto allo strazio del riconoscimento. Tutto l'interrogatorio, il magistrato, i testimoni svanirono come un sogno dalla memoria quando vidi disteso davanti a me il corpo senza vita di Henry Clerval. Dalla quinta edizione della Festa di Teatro Ecologico di Stromboli, Frankenstein di Mary Shelley, a cura di Cristiano De Murtas. Parte quarta di 5, lettura di Maya Sansa, musicazione dal vivo di Amedeo Monda. L'agenda della settimana teatrale. Siamo con l'autrice e attrice Gioia Salvatori, che sarà in scena a Roma al Gay Village il 21 luglio insieme alla Persona, uno spettacolo dal titolo Avere una brutta natura. Sì. Ciao Gioia. Ciao, come va? Ti piace autrice e attrice? Sì, mi piace autrice e attrice, manca magrissima. Magrissima. Magrissima, sì. Esile quasi. Esatto. Sì, siamo il 21 luglio alle ore 21 al Gay Village a Testaccio con questo progetto di teatro canzone che si chiama Avere una brutta natura, in una formazione a quattro con me che recito e canto. Poi c'è Paola Fegarotta alla tromba, Gino Maria Boschi alle tastiere e alle chitarre e Gabriel Bevilacqua al contrabbasso. Sì, senti, questa esperienza con la Persona sta evolvendo. Praticamente, diciamo che noi siamo un gruppo di quattro amici e che a un certo punto ci siamo messi lì a giocare e sono venuti fuori dei pezzi che poi facciamo, ogni tanto facciamo anche a Sgombro, che è la serata flusso di comici al Cinema Palazzo, di solito invece in estiva al Monk. Sì. E niente, cioè, nel giro di un anno abbiamo racimolato un po' di repertorio. Sicché alla fine l'abbiamo messo insieme, cioè l'ho messo insieme a delle cose di prosa, come non è venuto fuori uno spettacolo, ci puoi credere? Ecco. Ma sembra anche che sia in arrivo una incisione o sbaglio?

Appena sono arrivato davanti al monastero di clausura dei Benedettini, ho pensato alla Mariangela Gualtieri. Ho pensato che solo lei era qualcosa che poteva andare benissimo per quel luogo, e così è stato. E così via via ho pensato all'apparenza in gamma in due musei molto belli dove non era possibile fare né all'interno né all'esterno costruire un palco. E allora lì abbiamo Lombardi Tiezzi con Massimo Verdasso che fanno l'apparenza in gamma. A Tarquinia che poi a Caprarola, Caprarola. Ecco, in questo senso come funzionerà l'abbinamento tra il luogo e lo spettacolo? Intanto, siccome questo nasce come progetto di valorizzazione dei musei, sì. E allora i musei saranno aperti nel giorno degli spettacoli previsti, saranno aperti più tempo, fino alla sera tardi, e quindi il pubblico che accede laddove c'è da pagare un biglietto, che non è gratuito l'ingresso al museo, loro pagano il biglietto del museo. Con quel biglietto la sera dello spettacolo hanno l'opportunità anche di godersi fino al Sorrimento Posti di uno spettacolo di alta qualità, perché sono tutte compagnie e spettacoli di qualità. Allora, si tratta di due mesi, come saranno scaglionati gli appuntamenti? Nella maggior parte dei casi sono nel weekend, abbiamo incentrato nel weekend perché le persone sono fuori, stanno fuori, e appunto cominciamo ora con Virgilio Siani, poi abbiamo Fanny Alexandre con Criminal Tango, Daniele Cipriani che fa una cosa, un set specific, la prima di Don Faun al Museo Manzua d'Ardea il 13 luglio, con due spettacoli, uno spettacolo ripetuto due volte. Ecco, in questo senso volevo chiederti anche se ogni evento sarà unico. Ogni evento è unico, assolutamente sì, tranne per Odisseo dell'Hemming, che Hemming lo facciamo scendere dall'estremo nord dove fanno l'ora a Rovigo, li portiamo a Sperlonga, dove fanno una residenza e un laboratorio di tre giorni sui cinque sensi dell'attore, e poi saranno per tre giorni, anche loro due volte al giorno, il sito archeologico degrada fino ad arrivare al mare, e lì saranno appunto per 33 spettatori alla volta il loro modo di lavorare. Per tutte le informazioni rispetto al programma ci sono dei riferimenti web? Assolutamente sì, sul web c'è, se chiunque digita Art City trova tutto, c'è poi l'ufficio stampa di TV che si occupa appunto di seguire tutta in scena. E poi troveranno tutti i librettini di Arziti con tutte le cose in qualsiasi luogo. Perfetto, allora ripetiamo l'appuntamento con In Scena dal 6 luglio all'8 settembre, 46 appuntamenti di prosa e danza in 20 musei, abbazie e siti archeologici della Regione Lazio. Anna, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie a te Federico, ti aspettiamo, Vieni a godere di un po' di bellezza nella bellezza, come uso dire io. Benissimo, a presto. Va bene, un abbraccio, grazie. Siamo con Luca Ricci, direttore della 16ª edizione di Kilowatt Festival a Sansepolcro, provincia di Arezzo, dal 13 al 21 luglio. Luca, ben trovato. Buongiorno a te e a chi ci sta ascoltando. Raccontiamo un po', per chi non conoscesse, intanto l'entità Kilowatt, cos'è? Kilowatt è un festival che si tiene appunto in Toscana a Sansepolcro, proprio dove nasce il Tevere, che poi da romani rivediamo alla fine, insomma. E è un festival legato alla scena contemporanea che ospita in questo anno 91 andate in scena di 52, se ricordo bene, differenti performance portate in scena da 45 compagnie che sono di teatro, di danza, sono anche gruppi musicali e anche di circo contemporaneo. Sono artisti che appunto lavorano sull'innovazione dei linguaggi, provengono in gran parte ovviamente dal nostro paese, cioè dall'Italia, ma ci sono anche una dozzina di artisti internazionali che in questo caso specifico di quest'anno provengono da Australia, Sri Lanka, Belgio, Spagna, Svizzera, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, insomma, e altri paesi che adesso non ricordo tutti quanti. 18 prime nazionali e 20 in esclusiva. Senti, quest'anno c'è un tema più caro degli altri sul quale avete puntato? Titolo di questa edizione si chiama Diversi perché umani, e noi cerchiamo sempre, come dire, di far passare il messaggio che l'arte è politica, è sociale, ha a che fare con il nostro tempo e con l'attualità. Quest'anno ci siamo chiesti che cosa c'è alla base del nostro essere umani, che cosa ci differenzia da altri esseri del creato, insomma, dell'universo. Crediamo che forse la cosa, andando alla radice di tutto, è proprio la capacità che hanno gli esseri umani di mettersi nel punto di vista dell'altro, di comprendere, di empatizzare, di solidarizzare, di guardare il mondo con gli occhi di qualcun altro. È una capacità che noi umani abbiamo. Quando la perdiamo, c'è da farsi qualche domanda su quanto restiamo umani. Insomma, ecco, credo che abbia molto a che fare con temi che, insomma, anche l'attualità politica del nostro tempo porta in primo piano molta violenza in questi mesi, giorni, insomma, purtroppo anche anni, perché sarebbe bello fosse cominciato ora. In realtà comincia da lontano questo fenomeno. Luca, come sarà strutturata la settimana? Allora, ogni giorno, appunto da venerdì 13 a sabato 21 luglio, chi arriva a Sansepolcro trova la possibilità di vedere almeno 6-7 spettacoli differenti. Cominciano più o meno ogni giorno dalle 17 in poi e vanno avanti in alcuni giorni più legati magari al fine settimana, anche fino all'una, alle 2 di notte, ovviamente alleggerendo più si va avanti, insomma, mettendo alla fine i concerti, insomma, le cose anche più rilassanti e più conviviali, ovviamente. E quindi, insomma, c'è la possibilità di accedere ai spettacoli con dei biglietti molto limitati, 9 euro o 6 euro se si è aderito a una riduzione. Poi ci sono moltissime scontistiche per chi fa il biglietto per l'intera giornata e via dicendo. Andando sul sito www.kilowattfestival.it si trovano proprio tutti gli appuntamenti giornalieri, quindi se uno decide di venire, insomma, un giorno qualunque, no? Venerdì 20, martedì 17, insomma, quello che vuole di questi 9 giorni, vede che cosa c'è in quel giorno e può acquistare o prenotare, insomma, i biglietti per le cose che più gli interessano. Siamo in età adolescenziale, che bilancio facciamo? Sarebbe bello se fossi io in età adolescenziale, però lo è il festival, ma non io, però va bene lo stesso, nel senso che arrivati alla 16ª edizione, questo è un progetto realmente nato dal basso, nel senso che quando l'abbiamo iniziato, contrariamente ad altre importanti e preziose iniziative dove magari sono le amministrazioni pubbliche che chiedono, che decidono di investire su una progettualità culturale di questo tipo, nel caso nostro è stata proprio un'iniziativa fatta da un gruppo di ragazzi, allora 27enni, che pensavano che, appunto, avesse senso nel loro territorio, perché poi io sono anche nato a Sansepolcro, pur vivendo appunto a Roma, avesse senso per loro costruire un evento che portasse sul territorio artisti, colleghi, operatori, addetti ai lavori, critici, insomma, e cose del genere. Da allora effettivamente il festival, nato in una dimensione molto piccola, molto locale, io amo sempre raccontare che la prima edizione mandai i miei genitori in vacanza per avere casa loro, insomma, e metterci la gente dentro. Siamo diventati un evento che, per farti un esempio, insomma, è capofila di un progetto europeo di cooperazione su larga scala che coinvolge 12 partner e di 9 paesi europei. Quindi, insomma, la strada è stata fatta, poi ce n'è sempre altra da fare. La cultura è comunque sempre fragile, ha bisogno sempre del sostegno di politici illuminati e anche di spettatori appassionati, perché senza gli spettatori, senza chi poi si muove per l'Italia a sostenere questo tipo di iniziative, non si potrebbero fare, insomma, questo genere di cose. Però indubitabilmente il bilancio non può che essere positivo, perché qualcosa è accaduto. Innegabilmente oggi Sansepolcro è un po' una, si è presa, insomma, senza presunzione, però, insomma, una piccola capitale della sperimentazione, dell'innovazione, dei linguaggi del contemporaneo, durante tutto l'anno, perché noi siamo anche una residenza creativa, cioè uno spazio dove gli artisti vengono a creare spettacoli, ma in maniera speciale in questi giorni estivi, quest'anno appunto dal 13 al 21 luglio, quando c'è il festival, la città è davvero molto animata di persone, artisti e spettatori curiosi, insomma, persone che vengono qua attratte dai contenuti del festival. 16ª edizione Kilowatt Festival a Sansepolcro dal 13 al 21 luglio. Un saluto e un ringraziamento al direttore Luca Ricci. Luca, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Bene, grazie molte e a presto, grazie anche a chi ci ha ascoltato. Ecco, noi Livia Antonelli della compagnia Habitas, co-direttrice del primo Castellinaria Festival di Teatro Pop al Castello di Alvito, provincia di Frosinone, dal 21 al 27 luglio. Livia, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Partiamo dall'inizio, come è nato questo progetto? Questo progetto è nato, allora, in primis perché io sono originaria di quelle zone, di un paese accanto ad Alvito che si chiama Casalvieri, e ho sempre avuto, insomma, il desiderio di portare spettacolo lì. Poi insieme a Ivano Capocciama, che è un ragazzo appunto co-direttore artistico del festival, che è di Alvito proprio e lavora stabilmente nel teatro comunale, abbiamo deciso di unire le forze e di portare appunto spettacoli di compagnie giovani come noi, Tutendo 35, al castello, non al teatro ma al castello, all'aperto, un posto bellissimo, castello medievale del XIII secolo, famoso perché c'era una manifestazione durata per anni e anni che si chiamava Castello Reggae, facevano musica reggae, c'erano migliaia di persone ogni sera e il nostro auspicio, insomma, è di far rivivere questo posto con il teatro, con la musica, insomma, con l'aggregazione, ecco. Sì. Senti, rispetto alle scelte artistiche, come vi siete mossi? Sì, allora, rispetto appunto, noi, come ho detto, siamo giovani, siamo tutti under 30, e rispetto alle scelte artistiche abbiamo deciso di portare spettacoli, diciamo, di compagnie che sono simili a noi. Quindi non abbiamo fatto un bando pubblico, abbiamo cercato su internet tramite appunto altre iniziative, altri festival, rassegne, e abbiamo scelto 4 spettacoli da tutta Italia, di persone che non conosciamo, quindi sono molto contenti, e sono tutti e quattro spettacoli molto diversi tra loro. Appunto, non volevamo incentrarci su un tema specifico, volevamo appunto portare un teatro pop, nel senso di aperto a tutti, accessibile, e quindi appunto sono spettacoli, 4 spettacoli completamente diversi l'un l'altro, anche nel linguaggio. Poi magari se ho tempo li posso elencare. Dico 4 perché appunto gli spettacoli proprio in programma saranno dal 24 al 27, quelli della direzione che abbiamo scelto noi, mentre il 21, 22 e 23 diciamo che ci sono degli ospiti. Il primo è appunto il 21, apriamo con Giorgio Colangeli, che è un attore appunto sicuramente non giovanissimo, che però noi stimiamo tantissimo a livello artistico, perché appunto questo spettacolo sulla Divina Commedia. Sarà una serata particolare, si chiamerà Peccati di Gola l'inaugurazione, perché oltre allo spettacolo di Giorgio ci sarà una mostra organizzata dalla Fondazione Mastroianni di Arpino, che è un altro paese latticino, sempre con delle miniature della Divina Commedia. Ci saranno appunto gli stand anogastronomici che faranno tutti i menù sul tema Peccati di Gola, quindi questa sarà l'inaugurazione. Mentre il sì. 22 portiamo un artista locale, questo è l'intento anche riusciremo a fare per il prossimo anno, di portare sempre un artista del luogo. Quest'anno è Fulvio Cocuccio, che è, insomma, è abbastanza famoso nella Valle di Comino, è un burattinaio, lui fa spettacoli appunto di burattini, d'arte, proprio di tradizione dell'Ottocento, e porta appunto sia uno spettacolo di burattini che è uno spettacolo musicale che si intitola Chiante per Ghiande, in dialetto, e parla appunto della gente della valle, delle storie della valle, è molto divertente verso i bambini. Mentre il 23 ci siamo noi, la nostra compagnia Habitas, che porta proprio il cavallo di battaglia ormai, che è l'Imbroglietto. Infatti anche stasera siamo in scena a Roma all'Estate Romana, quindi questa è la struttura, diciamo, del festival a livello teatrale. Sì. Poi abbiamo arricchito, ma col tempo questa struttura è molto semplice, perché è uno spettacolo a sera, abbiamo cercato di arricchirla anche per invogliare la gente a venire, insomma tutti gli ingressi saranno offerta libera, è una bella, insomma, impresa, una scommessa per noi, ecco. Ecco, considerato che è arricchito non solo da uno spettacolo a sera, da che ora si parte durante la giornata? Sì, si parte alle 19:30, okay. Ogni giorno ci saranno appunto stand gastronomici, da aperitivi, cocktail, così, e organizzeremo ogni giorno magari degli eventi, per esempio ci sarà il 22, la domenica si farà una passeggiata tra i castelli, ci sono due castelli, quello di Alvito, quello di Vicalvi e poi il lago di Portafibreno. Insomma, ci siamo messi in contatto con le associazioni della zona, ci stanno veramente aiutando tantissimo per appunto implementare con queste attività extra il nostro festival. Questo è un esempio. Poi appunto ogni sera ci sarà alle 21:30 lo spettacolo, dureranno tutti non più di un'ora, e a seguire ogni sera ci sarà un concerto. Benissimo. Che qui abbiamo cercato di chiamare sia gruppi di zona, cioè abbiamo concerti dal jazz, al rock, a world music, insomma, abbiamo cercato anche qui sul genere musicale di essere più incluire variegati possibile, perché ci interessa, insomma, questo è l'intento del nostro festival. Ovviamente non fare una cosa commerciale, con tutto il rispetto, insomma, magari non è l'intento il numero, sicuramente la qualità, però. E ci teniamo molto a invogliare la gente, perché sappiamo che è così, che a teatro ci si può anche divertire, che a teatro è anche bello, è divertente, non è una cosa vecchia. Insomma, questo è l'intento proprio principale. Bene. Ci dai tutti i riferimenti internet per sì, sapere di più? Allora, ci trovate sui social, Facebook e Instagram. La pagina è Castelli in Aria, tutto attaccato, Festival di Teatro Pop. Mentre appunto questi i contatti social, ok, questo, sì, poi abbiamo una pagina, un sito internet, ci trovate Compagnia Habitas e ci sta appunto la sezione Castellinaria. Questi sono i nostri contatti. Bene, allora ricordiamo la prima edizione di Castellinaria, Festival di Teatro Pop al Castello di Alvito, provincia di Frosinone, dal 21 al 27 luglio. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice Livia Antonelli. Livia, un abbraccio e ci si grazie. Vede lì. Ci sentiamo presto, grazie mille, buona serata. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.